olho. Sei preso tra le memorie, quelle di un tempo. Non sei altro che empatico. Non sei altro che empatico. Sei preso tra gli arbusti di un autunno afoso. Come per pietà. Come per pietà. Finalmente ti ritrovi nella giocata vincente. Le carte sono le tue e non quelle di Sandro. Trovi te stesso steso sul verde di un tavolo in centro, mentre crepiti, speranza. Sei preso e scalpore. Sei preso tra le memorie, quelle che piovono inverno. Non sei altro che empatico. Non sei altro che empatico. Sei preso tra le fumate di un autunno secco. Come per pietà, come per pietà. Finalmente ti ritrovi nella giocata vincente. Le carte sono le tue e non quelle di Sandro. Trovi te stesso steso sul verde di un tavolo in centro, mentre crepiti, mentre crepiti.